Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Il numero dal quale partiamo oggi è 8. Sono le nuove regole scattate per la provincia di Latina, nel Lazio, dove i contagi si stanno estendendo con particolare forza e comprendono queste regole la chiusura anticipata dei locali, massimo 4 persone a tavolo, contingentamento nei luoghi dove si fa sport al chiuso e altro ancora. In pratica un mini lockdown morbido, testimonianza territoriale di una situazione che si fa più preoccupante, non tanto e non solo per il numero dei contagi, che sì, ieri è stato più alto dei giorni precedenti, ma per gli ospedali, anche ieri quasi 150 ricoveri in più. Oltreoceano, Donald Trump dice di essere quasi guarito e che sabato farà un comizio. Per le altre vicende italiane, ieri è arrivato finalmente il via libera al decreto che farà partire la nuova Alitalia, mentre sulla concessione di autostrade ancora tutto fermo, l'ultimatum per la caducazione, come la chiamò il presidente del Consiglio Conte, scade domani. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Simone Spezia. Sono le 6:33 minuti e 40 secondi, care ascoltatrici, cari ascoltatori, è venerdì 9 ottobre, buongiorno. C'è Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione, Giorgio De Luca, Gloria Guerrera sempre in redazione, Margherita Ina e Francesco Ciaraffo, i nostri autori. E poi ci siete voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, per le vostre voci, SMS, messaggi su WhatsApp, tutto quello che volete, anche le mail, 24mattino@radio24.it se ci volete scrivere. Il contagio, dunque, questa ripresa dei contagi che preoccupa un po' tutti e una gestione in questa fase che non pare brillantissima, soprattutto a livello delle regioni. Ne parleremo più avanti alle 8:35 con Stefano Bonaccini, che è presidente della Regione Emilia-Romagna e, come sapete, anche presidente della Conferenza delle Regioni. Ieri abbiamo parlato delle code per fare i tamponi nei cosiddetti drive-in. A presa diretta sono andati a sentire come andava la coda a Napoli, no? Sentite un po', va. 822 persone in coda. Sì, da stamattina. Lei perché si fa il tampone? Ieri è risultato un bambino positivo in classe di mia figlia. Abbiamo comunque in famiglia un positivo. Siamo qua dalle 9. Hanno detto che i numeri erano finiti. Siamo in pandemia mondiale, hanno avuto 9 mesi per prepararsi. 9. E siamo al 6 ottobre che non sono ancora in grado di fare tamponi a tutti quanti tutto il giorno. La gente con i positivi a casa sta qua perché loro fanno paura degli assembramenti. Ma l'assembramento che si è fatto qua non hanno avuto paura. Un po' così, è un po' così, e quindi al risalire della preoccupazione risale anche l'attenzione su quello che è stato fatto davvero in questi mesi, quello che si sarebbe dovuto fare e che forse non è stato fatto. Così sostiene per esempio il consulente del governo Walter Ricciardi, dice: ragazzi, qua le regioni si sono mosse poco e male. Quando vedi delle regioni a cui dai dei soldi per riorganizzare il pronto soccorso, e io questo l'abbiamo fatto a maggio, e non hanno avviato nessun lavoro, per cui che cosa succederà? Con l'influenza arriveranno i malati sia di influenza che di Covid, e ci sono molti pronto soccorso che non hanno utilizzato i 235 milioni di euro per separare i percorsi. No, e siamo contenti, se come ci scrive Giovanni, se a Milano non c'è coda, attesa di 6 minuti, non è il primo che ce lo segnala questo, però... Va bene, non è. Alcuni hanno lavorato meglio, alcuni hanno lavorato peggio, evidentemente. E poi c'è la storia delle terapie intensive, vi ricordate? Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. Partono adesso, partono tra poco. Anzi, non sono ancora partite le gare per rafforzare le terapie intensive. Io non lo so, davvero. E non so in cosa consista la mala informazione della quale ci accusa un ascoltatore, il terrorismo dei media. Qua stiamo semplicemente dicendo di fare un po' di attenzione, un po' di attenzione. Prosegue Ricciardi, alcune regioni hanno lavorato male. Ci sono regioni che non hanno assunto i medici di igiene e sanità pubblica per fare le inchieste epidemiologiche, per cui ci sono ASL che hanno 2-3 persone che lavorano giorno e notte, e meno male che noi abbiamo questi giovani soprattutto abnegati che si sacrificano, però non funziona così. Noi abbiamo detto ad aprile che sarebbe ritornata la seconda fase, perché ancora della prima onda, perché non si è mai azzerata. Molte regioni hanno lavorato bene, la maggior parte delle regioni ha lavorato con grande ritardo. Cara Agnese Pini, direttrice della Nazione, buongiorno, come stai? Come stai? Io sento un po' una cappa che torna, e non è tanto quella dei contagi, sì, anche quella dei contagi, ma soprattutto di questo scontro tra le regioni e il governo che riparte come se non avessimo imparato niente nei mesi di marzo e di aprile. Lo dicevamo del resto che non avremmo imparato nulla, no? Quando inizia la pandemia... così con un po' di ottimismo si diceva saremo tutti migliori, poi i più freddi ci ricordavano che non saremmo stati né migliori né più preparati a nulla, e questo effettivamente si sta verificando, anche perché si sta riverificando un altro atteggiamento mentale che il Covid ci ha insegnato a essere sbagliato, cioè che l'emotività e le partigianerie, le tifoserie coi virus stanno a zero e ottengono effetti controproducenti. Sì. Mentre vediamo che riabbiamo non solo a livello politico, antipartitico, ma anche a livello stesso personale, un atteggiamento di nuovo molto troppo emotivo, oppure appunto la tifoseria circa il Covid, per cui sono ripartite le polemiche appunto un po' partigiane tra chi dice che si fa allarmismo, chi dice che non si è fatto nulla, chi dice che è tutto sbagliato, tutto da rifare, chi dice che invece è tutto perfetto, esatto. Non si riesce a trovare una posizione equilibrata. Agnese, devo dirti la verità, in tutto ciò non una grandissima figura per Vincenzo De Luca, appena rieletto trionfalmente alla presidenza della Campania. Vado al titolo di pagina 4 della Repubblica: Campania, la sanità al collasso, mancano i posti per i malati gravi. Ieri confronto tra De Luca e Speranza, e però questa Campania che si trova con un picco di nuovi contagi, 757, e come abbiamo sentito anche dalle voci che arrivavano da Napoli, non esattamente pronta. Non pronta, endemicamente non pronta, quindi io penso che il grande terrore di De Luca, che appunto ha fatto dell'emotività e dei toni un po' appunto da tifo il cliché anche della sua campagna elettorale, nonché dei suoi mesi del lockdown, il suo più grosso timore credo fosse proprio quello che sta succedendo in queste ore, cioè che in campagna arrivasse l'ondata Covid. Nei mesi dello scorso primavera, dello scorso inverno, la sua regione è stata graziata per motivi così di casualità, di curve epidemiologiche che non dipendono neanche troppo dal nostro controllo, o comunque che molto sono dipese anche da delle drastiche misure che ha applicato il governo nel marzo scorso. Penso che appunto la sua paura fosse proprio questa, cioè che si verificasse quello che effettivamente si sta verificando ora, cioè la sua regione al primo posto nel picco dei contagi con tutte le conseguenze che ne vengono fuori. Poi se ci addentriamo su quanto poco è stato fatto in questi mesi, diciamo sicuramente una cosa vera, nel senso che non è stato fatto abbastanza per riadeguare le strutture, ma il la questione appunto del problema sanitario in quella regione è una questione che è ben anteriore sì. al Covid. Sì, e detto ciò, Agnese, tu hai perfettamente ragione. Io però, a dirla proprio brutale, ricordo benissimo mentre raccontavamo il periodo nel quale raccontavamo la grande eccellenza mondiale della Campania, raccontata anche dalla CNN, ne parlavamo noi, lo pubblicate sui giornali, quindi ti ripeto, secondo me un po' si è fatto un po' troppo cinema dalle parti della Campania per poi ritrovarsi in una condizione. Molto cinema, perché si è spostata l'attenzione non su quella che era la realtà appunto delle strutture sanitarie, che non era adeguata, ma sul fatto che in Campania di contagi ce ne fossero pochi. Però ecco, la situazione sanitaria non era adeguata neppure prima della Bellugi ad essere adeguata, e che ci fosse una sproporzione di adeguatezza tra la situazione del sistema sanitario lombardo del nord Italia e quello del centro sud Italia, la famosa questione meridionale anche legata. Sì, è evidente, tu dici. E si sapeva, il governo lo sapeva già a marzo, è uno dei motivi per cui c'era una grande paura che questa famosa curva dei contagi si impennasse anche sotto la linea Maginot dell'Umbria, della Toscana, del centro Italia. Questa era la grossa paura del governo a marzo scorso, e si sta verificando purtroppo adesso. Uno spunto interessante ancora da Walter Ricciardi, ed è questo: dice in sostanza, il problema adesso non sono le terapie intensive, perché dato che li prendiamo prima i malati, il problema sono gli altri posti letto. Sentiamolo, va. Guardi, in questo momento il problema non saranno le terapie intensive, perché le terapie intensive le abbiamo già raddoppiate da 5.000 a 10.000, il problema saranno gli altri reparti, perché fortunatamente noi oggi siamo più bravi e intercettiamo prima i pazienti, per cui le terapie intensive, se va tutto bene, non le riempiremo. Il problema è non far andare i pazienti in terapia intensiva. Certo. Sul Covid poi torniamo tra un attimo. Intanto ci sono i dossier sospesi. Oggi, ieri è arrivato il decreto per la NewCo di Alitalia, con un consiglio d'amministrazione allargato a 9 persone per accontentare tutti. E beh, certo, perché politicamente è importante, no? Mettere insieme tutti quanti. Ovvio, no, per carità. Per carità. E con la possibilità di 5.000 esuberi ancora sullo sfondo. Nonostante i 3 miliardi schiaffati dentro di recente. E poi Atlantia, la caducazione, arriva, non arriva, così Gualtieri ieri, il ministro dell'economia, ospite di Porta a Porta, sì, credo di sì, via. Se l'accordo transattivo che si è delineato non venisse raggiunto per responsabilità del concessionario, naturalmente non si potrebbe interrompere il processo di caducazione che è stato temporaneamente sospeso proprio in virtù delle proposte del concessionario che ha prospettato un accordo transattivo. Qualunque sia la penale, diciamo. Adoro questa cosa della caducazione. Ci torniamo poi con Paolo Mieli, dopo il traffico. E poi Agnese, vorrei interpellarti sulla grande partita delle amministrative che adesso parte, perché abbiamo finito un'elezione, ne arriva subito un'altra. Pausa. Chiede un ascoltatore, ma le terapie intensive allestite alla Fiera di Milano e nelle Marche non erano uno spreco di soldi? Guardi, devo dire la verità, a costo di essere accusati di partigianeria politica, da queste parti abbiamo sempre detto che no, non erano uno spreco di soldi, ma erano degli strumenti da tenere a disposizione pronti nel caso si fosse presentata nuovamente un'emergenza. Cosa che mi sembra saggia. Quando abbiamo detto, ci avete detto siete leghisti. No, non siamo leghisti. Anche perché poi la stessa cosa l'hanno fatta nelle Marche, che era governata in quel momento dal centrosinistra. Quindi va bene. Cara Agnese, mi sembra che l'attenzione si stia concentrando su Roma, la grande partita con il PD che si prepara a piazzare nelle primarie i cosiddetti sette nani, così sono stati chiamati, perché sono sette persone poco note, quindi sette nani, e con l'ombra di Calenda che si staglia cupa e minacciosa sulle candidature del Partito Democratico, perché non vuole partecipare alle primarie però vorrebbe candidarsi, gran partita, e poi sono tutte le altre, però questa mi sembra la partita del momento. Tra l'altro l'affresco che dai quei sette nani e l'ombra di Calenda dà proprio l'idea di questa fiaba noir, no? legata alle elezioni romane, che diventano, perché poi le nostre elezioni amministrative hanno tutte questo filo conduttore, no? Devono sempre avere un sapore che va al di là dell'elezione stessa e che accendono poi una ridda politica nazionale, e anche l'elezione romana rischia di avere poi questa seconda chiave di lettura, perché lì ci si gioca moltissimo, soprattutto ci si gioca l'immagine che il PD ha perso quando la Raggi conquistò 4 anni fa la poltrona di sindaco con la maglia dei 5 Stelle, dando in là a tutto poi quello che è accaduto nella politica nazionale recente, cioè la vittoria romana fu davvero per il movimento la svolta politica che l'ha portata poi a quella rapida ascesa, e come abbiamo visto l'altrettanto rapida discesa. Ora ci si rigioca tutto in un'altra chiave, cioè nella prova di forza tra questa nuova alleanza che sembra ormai sempre più strutturale dopo quello che è successo invece alle ultime amministrative, quelle del 21 settembre, tra PD e Movimento 5 Stelle, che non devono darsi troppo fastidio, quindi non devono dare l'impressione di essere troppo rivali e al tempo stesso però devono mantenere almeno di facciata una serie di aspetti che siano digeribili ai loro elettori di riferimento, almeno in questo in questa fase della stagione politica. Sì. In tutto ciò è interessante l'ombra scura di Carlo Calenda. Senti, vedremo cosa succederà quando scioglierà la riserva. Intanto fammi andare proprio a Roma, perché siamo con Marco Milani, che è coordinatore romano della UGL, il sindacato UGL per la polizia locale. Milani, buongiorno e benvenuto. Buongiorno ai radioascoltatori. Una parte dei vigili, o meglio, degli uomini della Polizia Municipale che aderiscono al vostro sindacato sarà in piazza domani per questa manifestazione, che non ho capito bene se è una manifestazione negazionista sostanzialmente, Milani, questa marcia della liberazione contro le mascherine all'aperto. Guardi, in realtà quello che noi abbiamo potuto capire è una giornata di movimento che vede dalla prima mattina a Roma manifestare da Marco Rizzo e i comunisti italiani, la CGL con la sanità pubblica, movimenti accostati all'estrema destra come Forza Nuova, vede poi nel pomeriggio che quella accostati all'estrema noi... no, come accostati all'estrema destra, cioè Forza Nuova è dichiaratamente un movimento estrema destra, no? Sì, però suppongo che rientri all'interno dell'arco di ricerca previsto dal decreto Mancino, perché altrimenti insomma l'avrebbero sciolta, che sicuramente è di destra. Comunque sia, in quella invece nel pomeriggio, che comincia alle 2, a quella alla quale noi parteciperemo, a quanto pare ci sono anche comunque sia personalità del mondo scientifico, dello spettacolo, come Montesano, la Celentano, sicuramente poi la Quinalla con le sue posizioni anche abbastanza forti. Sì. Diciamo, noi siamo stati anche volutamente, mediaticamente accostati ai negazionisti in tono polemico, anche ai terrapiattisti. Dal nostro punto di vista è stata una provocazione per denunciare comunque un certo imbarazzo su quella che poi è stata l'ordinanza regionale che ha preceduto il DPCM di Conte, che introduce l'obbligo di indossare la mascherina H24 anche all'aperto. Sì. In condizioni ascolti Milani, sa qual è la perplessità? Dicono, questi sono uomini della Polizia Municipale, è gente che questa ordinanza dovrebbe farla rispettare, che ha l'incarico anche, tra le altre cose, anche di far rispettare questa ordinanza, e certo che si mettono a manifestare con i no mask è un problema. Però io credo che vadano anche comunque sia sensibilizzate o anche, diciamo, in qualche modo, perdoni il termine forte, denunciati magari degli aspetti di atti amministrativi che diventano difficili da comprendere, difficili da far comprendere a un cittadino, cioè 600.000 persone hanno perso un posto di lavoro, andare a multare con 400 euro magari la persona che a 20 metri da qualsiasi altra persona all'aperto si sta fumando una sigaretta e quindi non ha la mascherina, diventa imbarazzante per chi deve applicare un'ordinanza del genere e penso diventi difficilmente comprensibile anche da parte del cittadino. Cioè noi abbiamo, mi scusi, lei, voi avete scritto di reiterate quotidiane rinunce ai diritti di libertà e della persona, ma dov'è in questo? Allora, posto che quando uno è isolato la mascherina può anche non tenerla, quando è isolato, vabbè, però questa ok, quindi manifestate solamente per far sì che quando sei isolato tu possa non tenere la mascherina. Le faccio un esempio molto sciocco, cioè non vorrei fare politica. 48 ore prima c'era stata una notizia, forse è passata un po' sotto traccia, che il TAR aveva bocciato una precedente ordinanza sempre del Lazio emessa dal governatore Zingaretti che obbligava alla vaccinazione gli over 65. Quando poi è stato, diciamo, ascoltato il governatore su questa ordinanza ritenuta illegittima, l'uscita è stata, questa è stata una provocazione. Lei capisce che come agenti, cioè come proprio persone che rappresentano la comunità e devono far rispettare delle regole, se queste regole cominciano a essere vessatorie, cominciano a essere. Ma quindi questi agenti cosa faranno? Non le faranno rispettare? Questo assolutamente no, perché noi comunque sia vestiamo una divisa, siamo tenuti all'osservanza delle regole, però manifestiamo il nostro dissenso, manifestiamo le nostre perplessità, sperando appunto anche con una provocazione così abbastanza forte di dare uno spunto a quella che dovrebbe essere la politica a emettere insomma ordinanze più razionali, ecco. Il virus esiste, è pericoloso secondo lei, Milani? Il virus esiste, cioè non lo dico io, esiste, è pericoloso, bisogna cercare di adottare tutte le misure necessarie per evitarne il contagio in attesa che ci sia una soluzione definitiva che possa anche essere sicuramente un vaccino, ma questo però non ci deve impedire di vivere una vita il più possibile normale e né ci deve far cadere, secondo me, nel terrorismo psicologico. Questo al mio modesto punto di vista. Marco Milani, coordinatore romano dell'UGL Polizia Locale, grazie per essere stato con noi. Agnese Pini, direttrice della Nazione, GR24, ci risentiamo subito dopo con la rassegna stampa. E sì, vi racconteremo anche un po', c'è un pezzo di Sebastiano Messina che racconta di questa manifestazione che si prepara domani. No mask in piazza, la protesta che può diventare un focolaio, scrive Messina sulla Repubblica. A tra poco. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su aruba.it.